No, sapevo che la domenica è giornata. Io credo che la notte sia male, ho detto, va, almeno si parla tranquillo, invece ieri, come niente a forza, va la boom, tutti, allegria, a famiglia, una mentre è importante, l'altra si strumula, l'altro fa il casino.